Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Come vi avevo anticipato ieri, oggi iniziamo ad affrontare, grazie anche alla collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore, le misure della manovra economica del governo che riguarderanno più da vicino i risparmiatori e i consumatori. Si calcola, come titola oggi il Sole 24 Ore, che saranno 10 milioni i correntisti in possesso di un conto titoli che saranno colpiti, non certo positivamente, dalla rimodulazione al rialzo dell'imposta di bollo sui dossier titoli in un'operazione complessiva dalla quale lo Stato mira ad incassare 8 miliardi di euro, una delle voci di entrata più significative appunto dell'intera manovra. Chiamiamola voce di entrata, ma per qualcuno si tratta di una vera e propria stangata che si abbatterà sul risparmio delle famiglie, la ricchezza più importante del nostro paese. Secondo la relazione tecnica del Tesoro, l'incremento dell'imposta di bollo sarà fino a 120 euro per il 2011-2012, a 150 euro per i depositi sotto i 50.000 euro, 380 euro per i dossier titoli sopra 50.000 euro a partire dal 2013. Sembra tutto molto semplice e lineare, ma tra gli operatori del settore, banche, intermediari finanziari, serpeggia molto malcontento, perché senza mezzi termini si teme intanto una ritirata generalizzata anche dalle forme più semplici di risparmio come i BOT, appunto, se gli oneri dovessero risultare del tutto sproporzionati all'ammontare del risparmio detenuto. Di sicuro ci sarà uno spostamento del risparmio verso altre forme meno penalizzate dalla tassazione, anche se sembra ancora che il mondo bancario non abbia le idee molto chiare su quello che potrebbe essere lo spostamento e su che cosa potrà accadere. Di fatto, di tutto questo noi parliamo questa mattina, cogliendo come sempre le vostre domande all'800 24 00 24, con il collega del Sole Maximilian Cellino, che ne ha scritto diffusamente in questi giorni. Maximilian, ciao, bentornato. Buongiorno Deborah e buongiorno agli ascoltatori. Saluto e ringrazio per essere qui con noi in studio Radio 24 a Milano Michele Calzolari, presidente di Assosim, che è la società degli intermediari appunto finanziari delle SIM. Presidente Calzolari, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ieri è passato un lungo pomeriggio con tutti i colleghi appunto a studiare le novità contenute in questa manovra, molti dettagli appunto anche da spiegare bene a chi ci ascolta. C'è anche l'altro tema molto importante della armonizzazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie, che in realtà appare ancora dell'intera manovra l'aspetto più nebuloso. Parleremo anche di questo. Vi ho dato il numero verde per intervenire, potete farlo anche attraverso l'SMS al 349-238-6666, oppure ci potete scrivere all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di partire con le novità della manovra finanziaria, le novità fiscali, direi di andare a vedere quello che succede in borsa, perché oggi è una giornata che è partita di nuovo piuttosto male per i listini europei e naturalmente, come ci si attendeva, è pesato fortemente il nuovo giudizio di Moody's, l'agenzia di rating, che ha declassato a spazzatura i titoli del debito del Portogallo. Non è una notizia che sorprende, abbiamo più volte già definito molto attive le agenzie di rating nelle ultime settimane, e comunque i titoli del debito portoghese sono spazzatura e borse stamattina molto in ribasso, con però in netto miglioramento adesso vedo Parigi e Francoforte che stanno portandosi sulla parità, Londra è a meno 0,3%, invece tracollata, per usare un brutto termine, Piazza Affari, che è arrivata a perdere oltre il 2%, adesso il FTSE MIB a meno 1,45%. Qua sono scivolati pesantemente proprio tutti i titoli del settore bancario, per le preoccupazioni sul debito sovrano europeo, ma anche per le misure della manovra economica appunto che si abbatteranno su banche e assicurazioni, aumenterà l'aliquota IRAP su queste società, e quindi probabilmente si stanno facendo un po' i conti anche su quanto queste misure incideranno sui bilanci degli istituti di credito, delle assicurazioni e quant'altro. Fondiaria, meno 7%, continua la sua discesa in corso all'aumento di capitale. Monte dei Paschi lo ha concluso meno 4,82, Unicredit meno 4,89,39, Parmalat meno 4,17, UbiBanca meno 4,13, sembra un bollettino di guerra quest'oggi. Banco Popolare meno 3,28, Intesa San Paolo meno 3,27, Banca Popolare di Milano meno 2,85. E vi dico appunto che tra l'altro è anche migliorata la situazione su molti titoli che arrivavano a perdere tra il 5 e il 6%. Chi si salva dalle vendite stamattina? L'Ottomatica si è messa a correre improvvisamente, più 3,68%, più 3,90% adesso, a distanza segue Buzzi Unicem più 0,5%, Bulgari più 0,08%, e qua la lista dei titoli positivi è già terminata. Il declassamento dei titoli portoghesi da Moody's ha inciso soprattutto sul mercato valutario, l'euro sul dollaro è sceso oggi a 1,43,60 e poi è tornato, ha visto che poi peraltro un po' stamattina di titoli di Stato italiani parleremo, è tornato a salire lo spread tra BTP e Bund, il differenziale appunto di rendimento fra il decennale italiano e il paritetico tedesco si è riportato oggi su livelli molto alti, sui 213 appunto centesimi. Quindi lo scarto appunto si è di nuovo riallargato dopo aver toccato un picco a 215 punti base. Direi di lasciare la borsa per andare al tema di questa mattina, le novità contenute nella manovra economica che riguardano la tassazione del risparmio delle famiglie italiane. Da 34,20 a 120 euro. Questo il rincaro in arrivo l'anno prossimo per l'estratto conto del dossier titoli inserito nel testo finale della manovra finanziaria. A tutti i titolari di deposito titoli verrebbe dunque applicato un bollo rinforzato sull'invio dell'estratto conto, da cui è esonerato solo chi possiede titoli e valori per cifre inferiori a 1.000 euro. Una vera e propria botta per chi possiede patrimoni modesti e sceglie investimenti a basso rischio e rendimento. Chi ha, ad esempio, in portafoglio 10.000 euro in botta annuali, che oggi rendono circa l'1,50% al netto di tasse e commissioni, riuscirebbe a stento a coprire la nuova richiesta del governo, pari all'1,2% del patrimonio considerato. Degli interessi annuali dopo questo superbollo rimarrebbero infatti 30 euro, di cui circa 18-20 vanno alla banca per la gestione del servizio. Dunque in tasca ai risparmiatori alla fine resterebbe ben poco. Ma non è tutto. A partire dal 2013, infatti, l'imposta salirà a 150 euro annuali per chi possiede titoli fino a 50.000 euro e a 380 euro per dossier contenenti titoli per un valore nominale superiore a questa soglia. A conti fatti, però, il superbollo avrà un impatto maggiore per i portafogli più esigui, tanto che secondo gli operatori del settore, la nuova misura potrebbe modificare l'attuale mappa del risparmio nazionale, scoraggiando la tenuta di dossier titoli con somme modeste e spostando l'asse verso i depositi vincolati. 800 24 0024 il numero verde per le vostre domande, e vedo che ci sono già molti ascoltatori che si stanno prenotando, così come in molti ci stanno scrivendo, soprattutto molti titolari di conti titoli, ovviamente per esempio detenuti presso intermediari online, e vedo già che stanno tartassando oggi i call center di queste SIM, ce lo stanno raccontando alcuni ascoltatori, per capire intanto da quando tutta l'operazione partirà, se ci saranno degli effetti retroattivi e quindi da quanto effettivamente, da quando questa rimodulazione dell'imposta di bollo sui conti titoli partirà concretamente. Dottor Calzolari, mi aiuta lei a sgombrare il campo intanto dalle questioni da chiarire sulla tempistica delle misure? Per quanto riguarda la tempistica, l'aumento del bollo è compreso nel decreto, quindi è immediatamente efficace. Adesso non so se lo si farà partire dal primo di luglio per, come dicevamo, a microfoni spenti, per, esatto, dare, diciamo, un semestre completo, però retroattivo non sarebbe neanche del tutto corretto. Stiamo comunque parlando di pochi giorni, ma in ogni caso è efficace da subito. Mentre l'armonizzazione delle aliquote al 20% fa parte della legge delega che dovrà essere approvata successivamente, quindi immagino che ci vorranno almeno 6 mesi. Avrà tempi più lunghi, sì. Analogamente, sembra, ma non è certo, che nell'ambito della legge delega torni fuori l'argomento del cosiddetto fissato bollato sulle transazioni, però anche questo se ne discuterà, non è certamente una cosa efficace da subito. Quali sono gli aspetti che vi preoccupano di più di questo nuovo impianto fiscale come SIM, come società di intermediazione immobiliare, dottor Calzolari? Guardi, se posso fare un primo, se una premessa. Se ho poi peraltro posto la domanda in maniera corretta, magari non c'è niente che vi preoccupa. No, c'è molto che ci preoccupa. Diciamo che dal punto di vista generale bisogna fare una prima considerazione, che come dimostra l'andamento dei mercati di oggi, la situazione è grave, e quindi credo che un po' tutti debbano fare la propria parte per evitare che anche l'Italia venga in qualche maniera coinvolta in questa spirale all'ingiù che ha già toccato Grecia e Portogallo. Per cui sicuramente tutti devono fare uno sforzo, e lo sappiamo. Dall'altra parte però c'è un altro principio che secondo me è altrettanto importante, ed è che oramai facciamo parte di un contesto finanziario europeo dove i capitali sono estremamente mobili, e quindi non è giusto, non è possibile che si prendano decisioni in materia fiscale applicate soprattutto su temi così delicati, applicate soltanto a un paese, perché si rischia che altrimenti i capitali vadano da un'altra parte, e analogamente all'interno del paese sarebbe opportuno, secondo me, evitare di privilegiare certe categorie di titoli a scapito di altri, ed è per questo che ad esempio io non condivido il fatto di esentare titoli di Stato per quanto riguarda l'imposizione. Questi due punti ci hanno portato, e sono proprio questi i temi centrali per cui siamo stati così contrari alla reintroduzione del fissato bollato. Non ha senso mettere una regola di questo tipo soltanto su un paese, soltanto sull'Italia, perché l'unico effetto che si avrebbe è uno spostamento di capitali verso altri paesi. Anche perché, per esempio, abbiamo avuto anche la revisione della tassazione sui fondi di investimento entrata in vigore a partire dal 1 luglio, esatto, che ci ha portato sull'armonizzazione fiscale europea, e adesso andiamo su un'altra strada. Quindi questo è il punto che non vi piace. Detto questo, invece, l'altra situazione che ovviamente poi noteremo nei suoi effetti in un termine probabilmente medio o più lungo, come secondo lei potrebbe riorganizzarsi la scelta di risparmio delle famiglie alla luce di queste novità? Le famiglie italiane sono molto affezionate ai titoli di Stato che, pur rendendo molto poco, adesso continuano comunque a garantire la riuscita delle nostre aste, e i titoli del Tesoro sono soprattutto il risparmio domestico delle famiglie. Sì, io condivido assolutamente quello che veniva detto nel servizio poco fa, e cioè diciamo, l'effetto combinato dell'aumento di questo, diciamo, del bollo sui depositi titoli e la riduzione dell'aliquota sui depositi, e viceversa l'aumento quello sui titoli obbligazionari, azionari, eccetera, porterà sicuramente a un forte aumento dei depositi bancari. D'altra parte, questo è un effetto, come dire, la diminuzione dei depositi bancari è successa qualche anno fa quando fu aumentata l'aliquota al 27%, oggi ci sarà un effetto di segno contrario, per cui, diciamo, il conto arancio, per dare un'indicazione così per capirci, o comunque questi conti, questi depositi vincolati avranno, secondo me, un fortissimo aumento, e quindi aumenterà la raccolta diretta delle banche. E quindi buone notizie per loro, certo. Sì, a svantaggio della raccolta indiretta. Credo invece che ci saranno dei riflessi fortemente negativi sulle obbligazioni bancarie. Mentre, tra l'altro, come dire, ha effetto zero la revisione della tassazione, perché le banche, gli intermediari in automatico, appunto, qualunque sia la percentuale, girano direttamente allo Stato. Invece, chiaramente, se si rivedesse la riorganizzazione del risparmio, è chiaro che lì poi le banche ne vedrebbero altri effetti. Maximilian, approfitto della domanda di un ascoltatore, Adelio da Lecco, per poi fare con te il punto, se possiamo più dettagliato possibile, tutti appunto gli strumenti finanziari che saranno interessati alla revisione della tassazione, alla revisione appunto e alla rimodulazione dell'imposta di bollo. Adelio, buongiorno. Buongiorno a lei, signora Deborah, e anche ai suoi ospiti. Volevo chiedere questo riguardo i buoni fruttiferi che io ho di diversi anni che sono depositati, e le obbligazioni che ho appena fatto, così vengono tassate anche loro o sono esenti? Obbligazioni di che tipo, Adelio? Governative, titoli di Stato, oppure le obbligazioni bancarie? No, obbligazioni postali. Allora, le bancarie collegate a Morgan Stanley o cose del genere. Adelio, allora si fermi lì e noi prendiamo come spunto la sua domanda per fare un po' di chiarezza su appunto gli strumenti del risparmio che saranno appunto colpiti e che... Allora, prima di tutto per Adelio, per gli altri ascoltatori, stiamo parlando qui di due misure, non di una sola misura. La prima è immediata ed è... nel momento in cui, come si diceva prima, andrà in Gazzetta Ufficiale la pubblicazione del decreto sulla manovra, e questa è quella sul conto titoli, sul deposito titoli, l'aumento dell'imposta di bollo sul deposito titoli, che passerà da 34,20 euro a 120 in un primo momento. La seconda invece non è immediata ed è l'armonizzazione del prelievo fiscale su questi strumenti. Per tornare al discorso di Adelio, lui parlava di obbligazioni, mi pare di capire siano obbligazioni bond bancari. Ecco, tutti questi qui vanno a finire all'interno di un conto titoli. Se ne ha più di 1000 euro, prima pagava 34,20 euro all'anno, adesso pagherà 120 euro all'anno. Poi dal 2013 potrebbe ancora aumentare a 150 se ha meno di 50.000 euro sul conto titoli, o a 380 se ha più di 50.000 euro. E questo è un dato di fatto per Adelio e per gli altri ascoltatori. L'altra cosa invece è, si vedrà appunto, come si diceva prima con il professor Calzolari, probabilmente fra sei mesi, non prima di sei mesi, è l'armonizzazione del prelievo fiscale. Le obbligazioni, Adelio stava parlando di obbligazioni appunto bancarie e anche di buoni fruttiferi. E buoni fruttiferi finora erano tassati al 12,5%, saranno tassati al 20%, quindi qui avrà un problema in più. Se invece avesse avuto delle, per chi ha dei BOT, dei BTP, dei titoli di Stato, l'aliquota fiscale dovrebbe rimanere al 12,5%. Quindi insomma veramente ogni risparmiatore dovrà fare i conti molto precisi del proprio portafoglio di investimenti. Peraltro, siccome questi 34,20 euro, adesso devo già andare in pausa, ma vi lancio questa domanda per la seconda parte della trasmissione, io Maximilian li vedo anche banalmente sull'estratto conto che la banca mi invia trimestralmente. Attenzione. Ecco, esatto, facciamo anche subito questa specifica perché non vorrei poi generare ulteriore confusione. Parliamo di conti titoli, non di conti, esatto, correnti. Quindi quello l'imposta rimane, di bollo rimane quel 34,20, rimane purtroppo è la stessa cifra, per cui si può generare confusione. Infatti di diverse email che mi hanno mandato anche i lettori che avevano letto gli articoli di questi giorni facevano un po' confusione fra le due cose. Infatti. 34,20 euro di imposta di bollo sul conto corrente, sul conto corrente, sì, ripeto, quelli rimangono esatto, quindi non vedremo i 120 immediati, no. Appunto, eccoci ritrovati in diretta a Salvadanaio che oggi inizia ad esplorare le novità contenute nella manovra economica del governo e oggi ovviamente partiamo con la questione più importante che riguarda migliaia di risparmiatori italiani, tutti quelli che possiedono un dossier titoli sui quali si abbatte la rimodulazione della tassazione, la revisione dell'imposta di bollo, appunto, che aumenterà dagli attuali 34,20 euro annuali a 120 euro sin da subito e nel 2012 arriverà a 150 euro per i depositi sotto i 50.000 euro a partire dal 2013, mentre per i dossier titoli sopra i 50.000 euro a partire dal 2013 la nuova imposta di bollo sarà di 380 euro. Peraltro molti giornali in questi giorni giustamente hanno fatto molte simulazioni prendendo ad esempio dossier titoli molto modesti, per esempio chi ha 10.000 euro in BOT annuali, quale rendimento attuale appunto riesce a spuntare e quale rendimento annuale riuscirà invece ad spuntare appunto con la nuova tassazione, sia in quella immediata post decreto sia in quella a partire dal 2013. Ci sono delle riduzioni drastiche che sono invece molto inferiori per chi ha depositi titoli di importo più elevato, per cui anche il criterio Maximilian Cellino della proporzionalità non mi sembra molto ben rispettato. Ci sono molte, se vuoi fare una considerazione poi su questo te la lascio fare, molte domande da parte degli ascoltatori. Marco chiede: allora, è dal 1 luglio o da quando va in Gazzetta Ufficiale il provvedimento, la partenza del tutto? Qua, ma in teoria è da 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Non ho idea se potranno inserire, per la semplicità, per semplificare una norma che faccia diventare retroattivo dal 1 luglio, e questo farebbe salvo il semestre, sarebbe più semplice applicazione per le banche. Devo confessare che non so nemmeno se sia possibile. Sentivo che se ne parlava, si ventilava questa ipotesi, ma non so se è realmente possibile che si abbia un effetto retroattivo di questo tipo. È arrivata un'altra domanda di un altro ascoltatore, Marco peraltro, che non so se sia lo stesso che ci faceva la questione, adesso controllo il numero di telefono, che sì, è lo stesso, che dottor Calzolari, presidente di Assosim, dice: allora, in sostanza, entro quanto devo vendere i miei titoli per non pagare il superbollo? Teoricamente dovrebbe averlo fatto già dalla fine di giugno praticamente, però detto questo è una domanda che probabilmente in molti che hanno appunto importi molto contenuti di risparmio che si staranno facendo in questo momento: dove far transitare questo risparmio per non essere così penalizzati? Sì, io credo che sia difficile a questo punto fare la corsa per evitare di pagare il bollo in questo semestre. Più a medio termine però il tema si pone, ci sono credo tanti risparmiatori che hanno più di un conto titoli, magari hanno due banche o cose del genere, e sicuramente da questo punto di vista ci sarà una semplificazione, almeno per quanto riguarda i piccoli, cercando di concentrare in un unico posto per pagare il bollo una volta sola e non più di una. D'altra parte c'è anche chi ha ipotizzato invece di frazionarlo per non averne uno troppo grosso, quindi io credo che per il piccolo risparmiatore la cosa obiettivamente sia cercare di avere un solo deposito titoli e poi bisogna pagare questa tassa. Un altro ascoltatore chiede, dottor Calzolari, chi lo comprerà più a questo punto, il debito statale? Ma sicuramente un po' di impatto c'è, francamente, perché come diceva giustamente lei poco fa, se uno si fa due conti, il rendimento dei titoli di Stato di oggi viene sostanzialmente mangiato completamente da questo, da questo bollo, quindi probabilmente è meglio e più facile spostare sul deposito, diciamo sul classico deposito, sul conto corrente, dove non si paga appunto questo ulteriore bollo. Quale, so che tu Maximilian Cellino, scusi, se posso però aggiungere una cosa, perché è bene che ce lo ricordiamo sempre. Quando si parla del debito pubblico, cioè dei titoli di Stato italiani, siamo ancora un po' tutti abituati a pensare a quello che succedeva alcuni anni fa, quando era tutto in mano ai risparmiatori. In realtà, da un'analisi fatta recentemente da una commissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si evince che, fatto 100 l'ammontare di titoli di Stato in circolazione, 50% sono detenuti da stranieri, che quindi non vengono impattati da questa misura. Un ulteriore 25% è in mano a istituzioni, che quindi pagano comunque un'aliquota sul reddito complessivo, l'IRES. Istituzioni, che cosa intendi? Investitori istituzionali, banche, assicurazioni, eccetera, e aziende, imprese, eccetera, e soltanto il 25% è in realtà in mano ai risparmiatori. Quindi è un mito quello di... del... È un po' un mito. Sì. Sì, e negli altri paesi la proporzione non è la stessa in Europa? Sì, sì, più o meno credo che non sia molto diversa, anzi addirittura forse la parte proprio in mano ai risparmiatori è ancora inferiore. Però quello che voglio dire, anche l'idea di esentare i titoli di Stato dal 20%, francamente riguarda il 25% del totale, non è poi un... più un effetto, come dire, psicologico che non reale. Allora, adesso abbiamo altre domande di un altro paio di ascoltatori. Prima però, siccome lo abbiamo veramente acciuffato in una condizione vacanziera piuttosto complicata, gli faccio subito esprimere le sue considerazioni, poi lo rilasciamo alla sua giornata, però so che ci teneva molto a farle, ci interessa capire questi nuovi balzelli, chiamiamoli così, perché poi facciamo fatica a definirli in un altro modo, come incideranno anche nell'attività e nell'operatività quotidiana di trader di borsa. Luca Barillaro, un trader indipendente, buongiorno. Buongiorno a voi. Quali sono le preoccupazioni legate alle vostre professionalità? Ma la preoccupazione, visto il nuovo imposto di bollo, in realtà è molto lieve. Noi sentiremo poco l'impatto, e anche la tassazione al 20% avrà comunque un impatto limitato. Il punto è che, viste le mosse che si sono alternate, viste le ipotesi che ci sono state poi ritirate, la generale confusione intorno alle nuove norme fiscali nel settore finanza, l'impressione che abbiamo avuto noi è che la nave non sia guidata da soggetti, diciamo così, esperti, o comunque non ci sia stata nessuna consultazione, che a nostro avviso doveva essere obbligatoria, con le associazioni di categoria. Quindi pensiamo ad Assosim, pensiamo all'ABI, pensiamo alla stessa Borsa Italiana SPA, e questo ci fa un po' paura, perché andare alla cieca in un settore come la finanza è estremamente pericoloso, perché si vanno a toccare leve molto delicate. Quindi noi ci aspettavamo della verità delle norme che andassero a incidere più sul dividend washing, che andassero a... Che cos'è? Ce lo spiega Barillaro, cioè, mi rendo conto che per lei magari sarà pane quotidiano, no, lo è, diciamo, un po' meno per i nostri ascoltatori. Diciamo a quegli atteggiamenti elusivi che permettono a operatori stranieri e non di passarsi azioni poco prima dello stacco del dividendo, e quindi usufruire di tassazioni agevolate. Ma al di là di questo, anche ci aspettavamo delle norme che incoraggiassero l'azionariato di lungo periodo, quindi giusta la tassazione, l'aumento di capital gain al 20%, magari anche al 25% per chi fa trading di breve come noi, ma per i risparmiatori che detengono, specialmente coloro che detengono in portafoglio titoli di aziende di Stato e che hanno partecipato alle relative offerte pubbliche di vendita, penso ad Enel, penso ad Eni e così via, allora se le tengono più di un anno magari sarebbe giusto equiparare la tassazione al 12,5% nuovamente, per incoraggiare l'azionariato di lungo periodo. Diciamo così, a nostro avviso è obbligatorio per chiunque sia al governo andarsi a consultare con i tecnici del settore. Il metodo non vi è piaciuto per niente. Assolutamente no. Barillaro, grazie, buone vacanze, ci risentiamo più avanti, probabilmente anche per capire un po' che strada prenderanno queste norme, soprattutto in che termini e quando entreranno in vigore. Adesso altre domande, appunto, da parte degli ascoltatori. Sentirei, anche se si è aggiunta da poco e li faccio ancora aspettare un attimo, Enrico da Brindisi e Roberto da Lecce, vorrei sentire Angela da Monza. Angela, buongiorno. Che questo è un aspetto che ci interessa. Angela? Angela, non la sentiamo, la recuperiamo. Adesso andiamo allora ad Enrico da Brindisi. Enrico? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Chi dica? Senti, io la domanda che volevo porre era questa. Non avendo titoli, BOT, CCT, ma azioni per 32.000 euro, sì, che fine devo fare? Allora, speriamo nessuna, Enrico, nessuna negativa. Dovrà probabilmente un po' ricalcolare il peso della nuova tassazione sul suo conto titoli. Sì, perché effettivamente noi stiamo facendo una gran serie di considerazioni come se tutti questi depositi titoli fossero formati solo ed esclusivamente da titoli di Stato. E invece all'interno dei dossier titoli, Maximilian Cellino, e prima parzialmente lo abbiamo detto, ci sono anche altri prodotti di investimento. Ci sono le azioni, ci sono fondi di investimento, ci sono gli ETF, le SICAV, come ci stanno indicando anche altri ascoltatori. Quindi a Enrico che cosa succederà? La tassazione su questo pacchetto passerà da 32 euro a 120. Euro, scusate, 34,20. 34,20, sì, è il costo praticamente 120. Del dossier. Ecco. Questo è il punto dove ecco. Fatto. Cioè, quello è il costo calzolari. Ma quello è il costo del dossier e qualsiasi cosa ci sia dentro il dossier, quello aumenta. Mentre per quanto riguarda specificamente il tema delle azioni, bisogna non dimenticare che sfortunatamente, date le perdite degli ultimi anni, credo che abbiamo tutti un certo margine prima di ripagare un capital gain, salvo che lui non sia stato così bravo da scegliere i titoli migliori. Tra l'altro, rimanendo, dottor Calzolari, alle considerazioni legate al conto titoli composto da titoli di Stato, dobbiamo anche considerare lo scenario economico futuro, no? I rendimenti, esatto, che potrebbero modificarsi, i tassi di interesse che comunque andranno ad aumentare, domani la BCE interviene di nuovo sui tassi europei, per cui anche in prospettiva dovremo tenere in considerazione anche questi aspetti. Sì, ovviamente l'aumento del costo del deposito è fisso, mentre il rendimento dei titoli evidentemente è variabile, per cui se i tassi aumentano i bot o le obbligazioni daranno un interesse superiore e questo, come dire, permetterà di coprire prima il costo di tenuta conto. In ogni caso è un aggravio pesante, questo non nascondiamocelo perché è così. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, alcuni ascoltatori ci chiedono, vedo che lo fanno in parecchi, Luigi, Giuseppe, li saluto, e ci chiedono: ma se il dossier titoli è aperto formalmente in banca, ma è vuoto e quindi non è movimentato, non contiene... questa è un'altra bella... Allora, se fate un giro online e guardate un po' tra i siti dell'associazione o sui forum online, ci sono molti casi di dispute su questa vicenda. In teoria un dossier titoli, se ha sotto i 1000 euro di giacenza, non deve costare niente. Però ci sono delle perché dispute... Perché adesso è così? E adesso è così. Cioè l'imposta di bollo di 34,20, se il dossier titoli vale meno di 1000 euro non si paga? Esatto. In realtà poi molti sono visti addebitare i vari 34,20 euro, che attenzione, qui magari mi riaggancio al discorso prima di Marco, questi 34,20 euro che poi diventeranno 120 euro non sono quasi sempre addebitati annualmente, ma molto spesso trimestralmente, no? Mensilmente o semestralmente, come sul conto corrente. Per cui il discorso di Marco, quando deve fare la corsa, per togliere i titoli, deve vedere anche questo, perché se magari è la fortuna che questo bollo viene addebitato mensilmente, magari ci perde soltanto un mese, se invece è addebitato semestralmente, se ce li ha adesso a luglio lo paga fino adesso a fine adesso. Io dicembre. Peraltro non vorrei neanche creare questo terrorismo, perché molti ci stanno scrivendo: certo, se chiudo oggi il conto pago. Adesso non esageriamo, fatevi due calcoli, io mi rendo conto che è tutto molto pesante quello che stiamo dicendo, perché sicuramente per chi ha solo i titoli di Stato, i rendimenti che ha potuto ottenere e spuntare negli ultimi tempi sono molto contenuti. Effettivamente si tratta di una penalizzazione importante, però adesso fatevi anche dei calcoli, magari per dei pacchetti di investimento un po' più consistente. Sì, soprattutto credo che questo vada detto per chi investe in azioni, cioè ahimè la volatilità del mercato è tale che basta un giorno di buon andamento del mercato per coprire i 100 euro in più. Infatti. No, tra l'altro sta riflettendo sempre sull'ascoltatore che dice: se chiudo oggi paghi il conto. In realtà il conto titoli non è esattamente facile da liquidare, non si fa in mezz'ora. Grazie. Per cui magari qualche onere, nonostante i provvedimenti Bersani del passato, c'è ancora, per cui bisogna fare attenzione un po' a tutto. Allora andiamo agli ultimi ascoltatori. Angela da Monza, Ripescata, buongiorno. Buongiorno. Angela, ci dica. Volevo sapere se la manovra si applica anche ai fondi comuni di investimento. Angela, la ringrazio. Maximilian Cellino. Anche qui è una questione da vedere. I fondi comuni di investimento vanno all'interno di un conto titoli. Però la maggior parte delle banche non fa pagare questo particolare questa particolare tassa, imposta di bollo, o evidentemente se la accolla, sempre se ci sono soltanto fondi comuni di investimento. Uh-huh. Di solito, almeno in passato, funzionava così: uno va in banca, si vede affibbiare dei fondi della banca, ci mancherebbe altro che la banca uh-huh. faccia pagare anche un conto depositi, e così è successo. Mi permetto di dubitare sul futuro, insomma. Mm-hmm. 34,20 era una cosa, 120 che poi saranno diventare 380 sono una cosa differente. Infatti, tra l'altro, è tutto molto da, secondo me, molto da definire. Ci vorranno delle circolari, io mi auguro anche delle circolari del ministero o dell'ABI, per chiarire esattamente cosa va dentro questo benedetto conto titoli e cosa no. Mm-hmm. Perché in questo momento, se uno telefona alla banca o operatori di banca, come è capitato di fare a noi, ma sì, ma guarda, c'è l'estrema incertezza. Diciamo che il governo negli ultimi anni ha adottato questa prassi di intervenire molto spesso in maniera molto dirompente su tanti temi complicati, sui mutui. Maximilian, abbiamo fatto 5 milioni di puntate e te, interventi ripetuti di vario tipo che poi le banche devono applicare. Poi noi siamo molto bravi a bersagliarle sempre e a dire che effettivamente vessano i risparmiatori e quant'altro, ma l'ondata di provvedimenti che li riguarda costantemente, c'è da riconoscere che è davvero tanta, e sono sempre tutti interventi piuttosto complicati poi nell'attuazione concreta. E su questo c'è un ascoltatore che ci scrive, Samuele, a salvadanaio@radio24.it, che è un bancario, un impiegato di banca, che insomma, al di là del giudizio che dà sull'intera manovra, la risparmio, Samuele, perché il suo giudizio è molto duro. Lui dice: la cosa che più sconcerta è l'entità dell'aumento, effettivamente, dottor Calzolari, perché da 34 a 120 subito e poi dai 380, sì, per dossier di un certo peso, però effettivamente si poteva forse fare magari qualcosa di un po' più graduato? Ma insomma, tutto si poteva fare, diciamo. Sì, tutto si poteva fare. Onestamente, a me colpisce molto. Oggi ho visto delle stime, si parla di 8 miliardi di euro. È una cifra veramente enorme. Cioè, questa oggettivamente è una forma di patrimoniale, non mm-hmm. nascondersi dietro un dito, è così. Allora, sì, anche un altro ascoltatore che ci scrive, che dice che non è equa. Vabbè, insomma, tutte le considerazioni le abbiamo fatte. Come stavamo dicendo prima, esatto. Il patto regressivo, cioè pesa di più sulle persone che hanno in teoria un reddito mm-hmm. inferiore, perché c'eravamo esercitati il discorso, esatto, che stavi facendo. Quanto è necessario per coprire il balzello? Che cosa devo mettere nel mio conto titoli, appunto, per poter compensare l'aumento del bollo? Più che necessario, io l'avevo visto nell'altra maniera, cioè quanto praticamente quanto devo rendere allo Stato dei titoli, degli interessi sui titoli di Stato che lui mi dà, cioè nel senso che fino ad ora sarebbe un botto annuale, rende l'1,5 spiccioli al netto di tutto, al netto delle commissioni e di acquisto e dell'aliquota, che rimane il 12,5%. Fino ora diciamo che sono necessari 2.180 euro di bot annuali per coprire i 34,20 euro. Oltre si comincia a guadagnare. E mm-hmm. questo lo spartiacque. Questo spartiacque si alzerà molto, perché fino al 2012 si alzerà a 7.648 euro di bot. Fino a 7.648 mm-hmm. i soldi se li prende lo Stato, dopo ci guadagni tu, risparmiatore. E dopo diventerà addirittura 9.560 per chi ha meno di 50.000 euro sul conto titoli, e 24.219 mm-hmm. 24.000 spiccioli per chi ha più di 100.000 euro. Ripeto, questo significa che se voi avete 100.000 euro di bot, fortunati mm-hmm. avete un bel gruzzolo, ma gli interessi sui primi 24.000 euro se li prende, certo, lo Stato. A guardarla bene, se si tratta di obbligazioni bancarie. Ecco, no, a guardarla bene, se ci fossero le risorse da parte delle famiglie, che invece adesso hanno dei redditi che non arrivano più da nessuna parte, magari potrebbe essere, come dire, una buona un buon veicolo per incrementare i portafogli, cioè gli investimenti, ma così in realtà non è, perché le famiglie adesso non ce la fanno. Un minuto scarso prima dei saluti, chi posso sentire? Roberto da Lecce, che aspettava da un po'. Roberto, rapidissimo, grazie. Allora, ascolti, io volevo fare solo due considerazioni e una domanda, molto breve. Allora, mi rifiuto di credere che una manovra del genere è stata fatta da un laureato in economia e commercio. Secondo, come si fa a fare conti così, 8 miliardi in 3 anni, ma il risparmiatore italiano non è un pollo, ci sono 10 milioni di correntisti, di conti titoli, non saranno 10 milioni dopo questa infatti questa l'abbiamo bancella. Detto Roberto, la sua domanda, terzo, che devo chiudere, come si fa a stabilire se io sul conto titolo titoli, io faccio trading, oggi posso avere 50.000 euro, sì, domani posso avere 3.000 euro. Infatti, quale sarà il periodo che vale? Roberto, la ringrazio. Calzolari, vi siete fatti anche questa domanda? No, sarà probabilmente una giacenza media nel periodo, immagino, media. Però questa è una cosa che deve, essere stabilita. Finora non c'erano problemi, ma adesso dovrà essere stabilita. Walter, un'ultimissima considerazione. Sì, perché devo salutare e concludiamo con lei. Io volevo soltanto dire una cosa velocissima, e cioè mi riferisco a quanto diceva l'ascoltatore adesso. Nel senso che questa qui è sembrata una manovra veramente improvvisata dell'ultima ora, e io condivido assolutamente quanto ha detto il nostro trader poc'anzi. Quello che è mancato totalmente è stata una consultazione con le associazioni, con quanti se ne occupano, per cercare di far venire fuori qualcosa di un po' meglio. Credo che sia molto importante adesso, nel corso dell'approvazione della legge delega, poter intervenire e cercare di, per quanto possibile, di apportare dei miglioramenti. Non sono sicura a Tremonti, ma i suoi collaboratori Radio 24 ascoltano sempre Tor Calzolari, e so che molte cose gli vengono riportate abbastanza di frequente. Beh, quindi sono sicura che coglierà anche questi suoi suggerimenti. Noi tanto su questo argomento ci ritorniamo prestissimo, rassicuro tutti gli ascoltatori che ci hanno chiamato a cui non abbiamo risposto. Salvadanaio torna domani. Io stasera, purtroppo per voi, sono pure a Focus Economia. Buona giornata a tutti.